Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati. Filotea, introduzione alla vita devota di San Francesco di Sales. Versione radiofonica a cura di Radio Maria. Capitolo 36esimo. Bisogna essere giusti e ragionevoli. Siamo uomini solo perché siamo dotati di ragione. Eppure è così estremamente difficile trovare un uomo veramente ragionevole, perché l'amor proprio abitualmente offusca la ragione. E insensibilmente ci conduce a mille generi di ingiustizie e di cattiverie, piccole sì, ma pericolose. Come le piccole volpi di cui parla il Cantico dei Cantici, distruggono le vigne. Essendo piccole nessuno ci fa caso, ma siccome sono numerose, producono danni seri. E non pensare che quello che ora dirò siano cattiverie o discorsi senza fondamento. Per poco accusiamo immediatamente il prossimo, mentre scusiamo noi stessi anche nel molto. Vogliamo vendere a prezzo molto alto e comperare a buon mercato. Vogliamo che si faccia giustizia in casa degli altri e per casa nostra invece misericordia e comprensione. Pretendiamo che si prendano sempre in buona parte le nostre parole, ma siamo suscettibili e permalosi a quelle degli altri. Pagando, vorremmo che il prossimo ci cedesse quello che è suo. Non è più giusto che si tenga quello che è suo e noi il nostro denaro? Ce l'abbiamo con lui perché non vuole piegarsi a noi, ma non ti pare che dovrebbe essere lui ad avercela con noi perché vogliamo farlo piegare? Se ci piace un esercizio, disprezziamo tutto il resto e sentenziamo su tutto quello che non è di nostro gusto. Se qualcuno dei nostri dipendenti ha un modo di fare sgarbato o ci riesce antipatico, può fare qualunque cosa, la prenderemo sempre per traverso. Non cessiamo di umiliarlo e siamo pronti al rimprovero. Al contrario, se qualcuno ci va a genio, può fare quello che vuole, lo scuseremo sempre. Ci sono dei figli veramente buoni e bravi, ma invisi ai loro papà e alle loro mamme solo a causa di difetti fisici, e magari poi sono preferiti quelli viziosi, perché hanno delle belle qualità fisiche. In ogni campo diamo la preferenza ai ricchi sui poveri, anche se non sono di stirpe più nobile o più virtuosi. E diamo la preferenza anche a quelli vestiti meglio. Esigiamo con scrupolo i nostri diritti, ma pretendiamo che gli altri siano remissivi nel chiedere i loro. Conserviamo il nostro posto con puntiglio, ma vogliamo che gli altri siano umili e condiscendenti. Ci lamentiamo con facilità del prossimo, ma poi guai se uno si lamenta di noi. Quello che facciamo per gli altri ci sembra sempre tanto. Ciò che gli altri fanno per noi, nulla. Almeno ci sembra. Assomigliamo alle pernici di Paflagonia, che hanno due cuori. Ne abbiamo uno dolce e cortese per noi, e uno duro, severo, intransigente per il prossimo. Usiamo due pesi, uno per pesare le nostre comodità, caricando il più possibile, l'altro per pesare quelle del prossimo, alleggerendo più che possiamo. La scrittura dice che le labbra ingannatrici hanno parlato in un cuore e in un cuore. Con ciò vuol dire che hanno due cuori, avere due pesi, uno forte per riscuotere e un altro leggero per pagare. Ed è cosa abominevole davanti a Dio. Filotea, sii costante e giusta nelle tue azioni. Mettiti sempre al posto del prossimo e metti lui al tuo, e così giudicherai rettamente. Quando compri, fa la venditrice, e quando vendi, fa la compratrice. Vedrai che riuscirai a vedere e comprare secondo giustizia. Si tratta di piccole ingiustizie, che non obbligano alla restituzione, perché ci limitiamo rigorosamente nei termini a nostro favore. Ma non per questo è un motivo per non correggerci. Sono grosse mancanze contro la ragionevolezza e la carità. E se si guarda bene, sono veri imbrogli. In fin dei conti, chi ci vuole a vivere con generosità, nobiltà di cuore, cortesia e con un cuore signore, costante, ragionevole? Ricordati di esaminare spesso il tuo cuore, Filotea, per vedere se verso il prossimo si comporta come vorresti che si comportasse lui nei tuoi confronti, se tu fossi al suo. Qui sta la ragionevolezza. Traiano, rimproverato dai suoi confidenti perché rendeva, secondo loro, la maestà imperiale troppo accessibile, rispose: «Eh sì, perché non dovrei essere per i cittadini quel tipo di imperatore che vorrei tanto incontrare se io stesso fossi un semplice cittadino?» Capitolo 37. I desideri. Tutti sanno che occorre tenersi lontano dai desideri di cose viziose, perché il desiderio del male ci rende cattivi. Ti dico di più, Filotea. Non desiderare le cose che sono pericolose per l'anima, come i balli, i giochi e i passatempi in genere. Non desiderare le cariche e gli onori, nemmeno le visioni e le estasi, perché in queste cose c'è un grave pericolo di vanità e di inganno. Non desiderare le cose molto lontane nel tempo, ossia che per lungo tempo non potranno capitare, cosa che fanno molti stancando e impoverendo inutilmente i loro cuori. E per di più si mettono in una condizione di continua agitazione. Se un giovane desidera fortemente ricevere un incarico prima del tempo, a che gli serve, dico io, quel desiderio? Se una donna sposata desidera essere religiosa, che senso ha? Se desidero comprare i beni del mio vicino prima che sia disposto a vendere, non sto perdendo tempo. Se quando sono malato e desidero predicare, dire la Santa Messa, visitare altri malati e fare tutto quello che fanno quelli che sono in buona salute, non sono desideri inutili, giacché in quelle occasioni non sono in grado di realizzarli. Questi desideri inutili occupano il posto di altri che dovrei avere, ossia essere molto paziente, molto rassegnato, molto mortificato, molto obbediente, molto dolce nelle mie sofferenze. Questo è quello che vuole Dio per ora. Generalmente abbiamo le voglie come le donne incinte, che vogliono le ciliegie fresche in autunno e l'uva fresca in primavera. Proprio non approvo che una persona tenuta a qualche dovere o qualche vocazione si diverta a desiderare un altro genere di vita, diverso da quello che conviene al suo stato attuale. Ciò distrae il cuore, lo rende fiacco per i doveri che gli sono propri. Se desidero la solitudine dei certosini, perdo il mio tempo, e questo desiderio occupa il posto di quello che dovrei avere di impegnarmi seriamente al mio dovere attuale. Vorrei che nemmeno si desiderasse di avere uno spirito migliore o un giudizio migliore, perché questi desideri sono frivoli. Occupano il posto del desiderio che ciascuno deve avere di coltivare il proprio così com'è. E non vorrei nemmeno che si desiderassero i mezzi che non si hanno per servire Dio. Questo per i desideri che distraggono il cuore. Quanto invece al semplice augurio, non porta alcun danno. L'importante è che non sia troppo insistente. Desidera le croci solo nella misura in cui sarai riuscita a sopportare quelle incontrate. È una pazzia desiderare il martirio e non avere la forza di sopportare un'ingiuria. Il nemico spesso fa nascere in noi forti desideri per eroismi impossibili, che non si verificheranno mai. E così ci distoglie dalle piccole occasioni presenti, dalle quali, per piccole che siano, potremmo trarre grande profitto. Nella nostra immaginazione combattiamo contro mostri africani. E poi di fatto ci lasciamo uccidere da serpentelli che incontriamo sulla nostra strada. E questo perché siamo distratti. Non desiderare le tentazioni. Impegna il tuo cuore a saperle attendere con coraggio e a saperti difendere quando arriveranno. La varietà dei cibi, soprattutto poi se la quantità è grande, carica sempre lo stomaco e se è debole lo rovina. Non riempire la tua anima di troppi desideri, non di quelli mondani perché ti distruggerebbero totalmente, ma nemmeno di quelli spirituali perché ti appesantirebbero. Quando l'anima è purificata, si sente libera dai cattivi umori, ritrova un forte appetito di cibi spirituali e come un'affamata desidera mille generi di esercizi di pietà, mortificazione, penitenza, umiltà, carità, orazione. Avere buon appetito, Filotea, è buon segno, ma rifletti bene se poi sarai in grado di digerire tutto quello che vuoi inghiottire. Con il parere del tuo padre spirituale, tra tanti desideri, scegli quelli che puoi attuare e portare a compimento ora. Ed impegnati seriamente su quelli. Vedrai che Dio te ne ispirerà altri. A suo tempo porterai a compimento anche quelli. E in questo modo non perderai il tuo tempo in desideri inutili. Fa attenzione, Filotea. Non ti chiedo di accantonare nessun genere di desideri, ti chiedo solo di metterli in ordine. Quelli che non puoi realizzare ora, mettili da parte, in un angolino del tuo cuore, fino a che non giunga il loro momento. E nel frattempo, realizza quelli che sono maturi e di stagione. Quello che dico non vale solo per i desideri spirituali, ma anche per quelli del mondo. Se non riusciamo ad agire in questo modo, saremo sempre anime inquiete e nell'affanno. Capitolo 38. Consigli per gli sposati. Il matrimonio è un grande sacramento. Lo dico in Gesù Cristo e nella sua Chiesa. E deve essere onorato da tutti. In tutti, nella sua totalità, ossia in tutte le sue componenti. da tutti perché anche le nubili devono onorarlo con umiltà, in tutti perché è ugualmente santo tra i poveri e tra i ricchi, nella sua totalità perché la sua origine, il suo fine, i suoi vantaggi, la sua forma, la sua materia sono santi. È il vivaio del cristianesimo che popola la terra di fedeli per completare il numero degli eletti in cielo. Ne consegue che la difesa del bene del matrimonio è molto importante per la società, perché è l'origine e la sorgente di tutti i rosselli che le danno vita. Piacesse a Dio che il suo amatissimo figlio fosse invitato a tutte le nozze come lo fu a quelle di Cana. Il vino della gioia e della benedizione non mancherebbe mai. E invece ce n'è appena un po' per cominciare. Il motivo è che è stato invitato Adone al posto di Nostro Signore e Venere al posto di Maria Santissima. Chi vuole avere degli agnelli molto belli e pezzati, come Giacobbe, deve agire come lui. Offriva alla vista delle pecore che stavano per partorire dei bastoncini colorati in vario modo. Similmente, chi vuole che il matrimonio sia felice, durante le nozze deve pensare alla santità e alla dignità di questo sacramento. E se poi, invece di pensare alla santità, ci si lascia andare a mille distrazioni, a feste, banchetti, a chiacchiere, tutto finisce lì. Nessuna meraviglia che i risultati siano poi diversi da quelli attesi. Esorto soprattutto gli sposi all'amore reciproco che lo Spirito Santo tanto insistentemente raccomanda loro nella Scrittura. Sposi cari, se vi amate reciprocamente, soltanto di amore naturale, non fate granché. Anche le coppie di tortore si amano così. Se vi amate di un amore umano, non aggiungete granché. Anche i pagani si amavano in tal modo. Ma io vi dico con il grande apostolo, mariti, amate le vostre mogli come Gesù Cristo ama la sua Chiesa. Mogli, amate i vostri mariti come la Chiesa ama il suo Salvatore. È stato Dio a presentare Eva al nostro primo padre Adamo e a dargliela in moglie. Amici miei, è Dio che con la sua mano invisibile ha stretto il nodo del sacro vincolo del vostro matrimonio e vi ha consegnato uno all'altra e viceversa. Come potete allora amarvi di un amore che non sia santo, sacro e divino? Il primo effetto di questo amore è l'unione indissolubile dei vostri cuori. Se tu incolli tra loro due tavolette di abete, servendoti di una buona colla, si uniranno in modo tale che ti sarà più facile spaccarle altrove che nel punto nel quale le hai incollate. Dio unisce l'uomo e la donna con il proprio sangue. Ecco perché quest'unione è così forte che sarà più facile che l'anima si separi dal corpo che il marito dalla moglie. Questa unione va intesa in primo luogo riferita al cuore, all'affetto, all'amore, non al corpo. Il secondo effetto di questo amore deve essere la fedeltà inviolabile di uno per l'altra. Anticamente i sigilli erano incisi negli anelli che si portavano al dito, cosa che del resto afferma anche la Sacra Scrittura. Ecco la ragione della cerimonia degli anelli che si compie alle nozze. La Chiesa, tramite il sacerdote, benedice un anello e in primo luogo lo consegna all'uomo, per significare che in questo modo marca e sigilla il suo cuore con questo sacramento, perché in esso non entri mai più il nome o l'amore di un'altra donna, finché vivrà colei che gli è stata data. Poi lo sposo mette l'anello nella mano della sposa, perché anche lei sappia che mai più in seguito il suo cuore dovrà cogliere affetto per un altro uomo, diverso da quello che il Signore le ha dato, finché vivrà su questa terra. Il terzo frutto del matrimonio è la legittima generazione dei figli e la loro crescita. Voi sposi godete di un onore molto grande, giacché Dio, volendo moltiplicare le anime che lo lodino e lo benedicano per l'eternità, vi ha scelto per cooperare ad un così grande disegno, affidandovi la generazione dei corpi nei quali egli fa scendere come gocce celesti le anime che crea appositamente per rifonderle in quei corpi. Per tutto questo, voi mariti dovete nutrire per le vostre mogli un amore tenero, costante, profondo. Per questo la donna è stata tratta dalla costola più vicina al cuore del primo uomo, perché egli l'amasse profondamente, teneramente. Le debolezze e le infermità delle vostre donne, sia di corpo che di spirito, non devono provocare nessun genere di disprezzo, ma piuttosto una dolce ed amorevole comprensione, perché è Dio che le ha create così. Infatti, per tale condizione dipendono da voi, e a voi ne viene maggiore onore e rispetto. Sono per tale motivo strettamente legate a voi quali compagne, e voi ne siete i capi responsabili. E voi, mogli, amate con tenerezza e cordialità i mariti che Dio vi ha dato. Ma non dimenticate di mettere nel vostro amore anche rispetto e cortesia. È per questo che Dio li ha creati più vigorosi e risoluti, e ha voluto che la donna dipendesse dall'uomo, ossa delle sue ossa, carne della sua carne, e fosse generata da una sua costola, presa sotto il suo braccio, per indicare che deve stare sotto la protezione ed essere guidata dal marito. In tutta la Sacra Scrittura si raccomanda insistentemente questa sottomissione, che poi la stessa Scrittura rende dolce, non solo perché vi chiede di accettarla con amore, ma perché raccomanda ai vostri mariti di fare la loro parte, con grande amore, tenerezza e dolcezza. Dice San Pietro: mariti, abbiate un comportamento discreto con le vostre mogli, perché sono fragili come vasi di cristallo, e portate loro onore. Vi esorto a rendere sempre più forte questo amore reciproco, ma fate attenzione che non si muti in alcuna forma di gelosia. Capita spesso che le mele più delicate e più mature abbiano il verme. La stessa cosa può capitare tra gli sposi. Dall'amore più ardente e premuroso può nascere il verme della gelosia, che guasta e fa marcire tutto. Comincia con le discussioni, poi le discordie e infine le divisioni. La gelosia non potrà mai entrare dove c'è un'amicizia reciproca fondata sulla virtù sincera. Infatti la gelosia è segno di un amore sensuale e che cresce dove trova una virtù manchevole, incostante, diffidente. Ed è per questo che è una sciocca pretesa volere esaltare l'amicizia con la gelosia. La gelosia è solo segno dell'ampiezza e dello spessore dell'amicizia, ma non della sua buona qualità, della sua bellezza, della sua perfezione. La perfezione dell'amicizia esige certezza nella presenza di virtù in colui che si ama. La gelosia invece presuppone l'incertezza sulla presenza di tali virtù. Se voi mariti volete che le vostre donne siano fedeli, insegnatelo loro con il vostro esempio. Dice San Gregorio Nazianzeno: con che faccia pretendete la pudicizia dalle vostre mogli se poi siete voi a vivere nell'impudicizia? Come potete domandare loro ciò che non fate voi? Volete che siano caste? Comportatevi castamente con loro. E, come dice San Paolo, ciascuno sappia possedere il proprio vaso in santità. Se al contrario voi insegnate loro cose disoneste, non meravigliatevi poi se le perdete, e con disonore. Voi, mogli, il cui onore è legato inseparabilmente alla pudicizia e all'onestà, conservate gelosamente la vostra gloria, e non permettete che alcun genere di dissolutezza offuschi la bellezza del vostro buon nome. Temete ogni sorta di attacco, per piccolo che sia. Non tollerate alcun corteggiamento nei vostri confronti. Dovete sospettare di chi viene a lodare la vostra bellezza, la vostra gentilezza. Perché chi loda una merce che non può acquistare, per lo più è fortemente tentato di rubarla. Se poi, alla lode delle tue qualità, quello aggiunge il disprezzo per tuo marito, ti offende gravemente, perché è evidente che non solo vuole perderti, ma ti considera già a metà perduta. Infatti, il contratto è mezzo concluso con il secondo acquirente quando si è stanchi del primo. Ci sono donne, sia dell'antichità che dei nostri tempi, che hanno l'abitudine di portare pendagli con un certo numero di perle alle orecchie, per il piacere di sentirle tintinnare, una contro l'altra. Almeno così dice Plinio. Ora, se permetti, ti dico il mio parere. Io so che Isacco, grande amico di Dio, mandò a Rebecca, come primo segno del suo amore, degli orecchini. Penso che quell'ornamento mistico voglia significare che la prima cosa che un marito ha il diritto di aspettarsi dalla moglie e che la moglie deve gelosamente conservare per lui è l'orecchio. Non deve lasciarvi entrare alcuna parola o altro al di fuori del dolce tintinnio pieno di amore, fatto di parole caste e pudiche, figurato nelle perle orientali del Vangelo. Bisogna ricordarsi sempre che le anime sono avvelenate per le orecchie, come il corpo per la bocca. L'amore e la fedeltà unite insieme generano sempre libertà e confidenza. Ecco perché i santi e le sante nel matrimonio hanno usato di molte reciproche carezze, carezze piene di amore, tenere e sincere. Introduzione alla vita devota di San Francesco di Sales. Versione radiofonica a cura di Radio Maria. Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.